Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Insieme, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con la potenza sentite di quest'aria meravigliosa della Turandot di Puccini, Nessun dorma. Questo è un estratto di questa, di quella che è appunto l'aria più famosa, cantata da Pavarotti. Vinceremo tutti insieme. La battaglia è ancora lunga, vi racconterò dei numeri che ancora riguardano il nostro paese e non solo, e poi anche della nuova stretta del governo. Forse ci si aspettava anche qualcosa, diciamo, di più severo e di più restrittivo, diciamo così, però insomma delle misure ci sono. Ma per esempio chi temeva di non poter andare a correre al parco, non dico degli sprovveduti dei corridori della domenica, di chi chiuse le palestre e si è buttato in massa a correre nei parchi, ma di chi lo fa da tanto tempo, lo fa come una disciplina e lo fa da solo, perché da soli bisogna farlo, anche per riscoprire un po' di forma di meditazione nella corsa. Però bisogna saperlo fare, anche perché chi si butta così all'improvviso rischia anche poi dei traumi o addirittura, non voglio esagerare, però magari degli infarti o qualche effetto collaterale non positivo. Ne parleremo quindi di quelle che sono le misure più stringenti che sono arrivate poco fa da parte del governo. È in realtà un'integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo scorso. Poi ci occuperemo di una cosa che non è mai successa prima d'ora da parte dell'Unione Europea, la sospensione del patto di stabilità. Ci faremo spiegare bene in cosa consista e quali conseguenze potrebbe avere, nel senso positivo. Per quanto riguarda Codogno, lo ricorderete tutti che è stato il primo focolaio nell'Odigiano, questo insieme a voi Euganeo nel Veneto, dell'epidemia in Italia. È da lì che ci si è accorti, è da lì che è partito tutto. Bene, c'è un'iniziativa bellissima da parte del comune, della protezione civile del posto, e insomma ci faremo raccontare direttamente dal protagonista. 349-238-6666 è il numero, come sempre, per scrivere i vostri sms o whatsapp, anche se so che preferite ormai whatsapp. Comunque 349-238-6666, altrimenti c'è sempre per voi lì comodamente la pagina Facebook di Effetto Note. Fra le altre cose potreste anche dirmi, raccontarmi che cosa fate mentre ascoltate Effetto Note. È chiaro che siete in casa o al massimo al lavoro se siete costretti. Che cosa state facendo in questo momento? Io, mentre vi ricordo che c'è il Twitter durante il giorno, che è Roby con la Y, Linetta Bassa Giordano, oppure quello della diretta di Effetto Notte, adesso parto subito con la sintesi della giornata. Il coronavirus in Italia, superate le 4.000 vittime, 627 solo ieri, di cui 381 in Lombardia, ma aumentano anche i guariti, più di 5.000. La nuova stretta del governo, sport consentito da soli e vicino casa, stop invece alle attività ludiche all'aperto, limitati gli spostamenti nelle seconde case. Il coronavirus nel mondo, sono oltre 250.000 i contagiati in tutto il mondo, oltre 1.000 i morti in Spagna. Macron avverte, la Francia è solo all'inizio. E a New York a casa tutti i lavoratori, chiusi i confini con il Messico, il Canada e in Gran Bretagna chiusi pub e ristoranti. Le misure per affrontare l'impatto economico, l'Unione Europea annuncia la sospensione del patto di stabilità, è la prima volta che accade. Aperta la strada per lo sviluppo di nuovi farmaci antivirali, trovata l'arma che blocca il motore del coronavirus. Olimpiadi, il Comitato Internazionale Olimpico tiene duro su Tokyo 2020, presto per pensare il rinvio, dice il presidente Bach, che prende tempo, ma esaminiamo diversi scenari. Partiamo quindi dall'attesa stretta del governo sulle misure per contenere il coronavirus. Il governo ha adottato questa sera un'ordinanza con nuove misure restrittive per appunto contenere il contagio. Queste nuove misure si sommano alle esistenti, sono valide dal 21 marzo al 25 marzo, cioè quando scade il decreto del Presidente del Consiglio che aveva imposto la stretta e tutti gli spostamenti, limitazioni per gli spostamenti nelle seconde case, eccetera. E poi ne parleremo tra poco nel dettaglio. E sono sono oltre 250.000 i casi di coronavirus nel mondo, in Spagna superati 1.000 morti, intanto in Francia il presidente Macron avverte il paese è solo all'inizio della crisi, ma lo Stato regge. Si impennano a 184 i morti accertati per coronavirus nel Regno Unito, con un nuovo picco di 40 decessi in più in un giorno. Il primo ministro Johnson chiude pub e ristoranti. In Olanda in un giorno 30 morti e 534 contagi, in Grecia quasi 500 casi, chiusi tutti gli spazi verdi ad Atene e nell'Attica, e il governatore di New York ordina che il 100% dei lavoratori resti a casa, ma Trump esclude un lockdown, cioè un coprifuoco per tutto il paese. Poi ci collegheremo con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda il nostro paese, superate le 4.000 vittime in Italia per coronavirus, sono 4.032 appunto i morti, 627 in più rispetto a mercoledì, è il maggior aumento dall'inizio dell'emergenza. In totale sono 37.860 i malati, con un incremento di 4.670, quindi il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto 47.021. I dati sono stati aggiornati, come sempre, dalla Protezione Civile oggi, e sentiamo il capo di dipartimento, Angelo Borrelli, sulle tante fake news. Voglio anche ribadire quello che abbiamo detto già negli altri giorni. Il Dipartimento della Protezione Civile e il commissario non requisiscono materiali che sono destinati alle regioni, alle strutture ospedaliere. Sarebbe una lotta tra alleati e quindi questo non è assolutamente vero, quindi non corrisponde al vero di quelle notizie che si sono diffuse anche a livello di informazione sul web. Come voglio smentire seccamente questa notizia che gira, che il Dipartimento si starebbe preparando, poi non so perché il Dipartimento, per dichiarare condizioni di biocontenimento su tutto il Paese a partire da metà aprile. Sono delle fake news che devono essere punite, e io mi auguro che possano essere individuati coloro i quali mettono in rete queste notizie che sono destituite di ogni fondamento e sono anche molto allarmistiche. Già. E dicevamo, l'emergenza che continua in Italia con tutta la sua gravità, soprattutto in Lombardia, regione che conta il maggior numero di contagi e il maggior numero di focolai. Ieri avevamo proprio qui presente, ospite, l'assessore al welfare della regione Lombardia, Gallera. In Lombardia i pazienti positivi sono 22.264, 2.380 in più di ieri, i ricoverati oltre 7.000, sono 348 in più, a cui vanno aggiunti gli oltre 1.000 in terapia intensiva, 44 in più. Purtroppo 381 i morti nella regione in sole 24 ore. Sono i numeri comunicati dall'assessore al welfare lombardo Giulio Gallera. Oltre 4.200 guariti, a Bergamo si contano 509 nuovi contagi, 401 a Brescia, questa la situazione a Milano. Milano è arrivata a 3.804 con più 526, che però è inferiore alla crescita di 638 di ieri. In una Lombardia che ancora attende il picco, le strutture sanitarie combattono ora dopo ora per reggere l'urto dei contagiati, mentre l'esercito scende in strada a Milano per controllare il rispetto delle norme di contenimento. Dalla Lombardia l'indicazione di isolarsi anche in casa. Sentiamo Gallera. Noi dobbiamo fare di tutto per evitare di contagiare o di essere contagiati. Mantenere il distanziamento sociale. Chi ha soltanto un raffreddore deve isolarsi anche all'interno del proprio domicilio. Quindi questa è la battaglia degli italiani, questa è la battaglia dei lombardi, ognuno la deve combattere sapendo che è il protagonista. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, chiede di istituire la zona rossa nella Val Seriana e di chiudere tutto ciò che non è essenziale, in questo pienamente allineato al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha fatto le stesse richieste al governo, ma senza nuovi limiti, ha fatto sapere Fontana, faremo da soli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia importante di servizio che riguarda i pensionati. Per aprile, maggio e giugno c'è il ritiro anticipato della pensione per 850.000 persone. Una misura messa in campo da Poste e INPS e sollecitata dal governo per evitare che il normale gesto di andare a ritirare la pensione possa diventare un fattore di rischio e di diffusione del contagio. L'intervento riguarda allora 850.000 persone che non hanno l'accredito della pensione sul conto corrente. L'assegno sarà erogato in anticipo per i prossimi tre mesi e, come spiegato dalla ministra del Lavoro Catalfo, il pagamento sarà scaglionato. Ci si recherà alla posta secondo un preciso ordine alfabetico spalmato su più giorni, dal 26 marzo al 1 aprile per la mensilità di aprile, dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno. La misura adottata, afferma lo SPCGL, è sicuramente positiva, ma si tratta di un meccanismo complesso, vista soprattutto la divisione per giorni e per cognome. Per una piena riuscita dell'operazione, dice ancora il sindacato, si rende quindi necessario ogni sforzo comunicativo possibile. Poste ricorda intanto che i titolari di carta postamat, carta libretto o di Poste Pay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM postamat senza bisogno di recarsi allo sportello. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto Commissione Europea e Governo italiano sono al lavoro proprio per sostenere l'economia travolta dall'emergenza coronavirus. Oggi l'annuncio della sospensione del patto di stabilità è la prima volta che succede e tra poco ci faremo spiegare bene in che cosa questo consista, che cosa comporta. Intanto per quanto riguarda i mercati, le borse europee hanno terminato la seduta in rialzo con Parigi più 5%, Francoforte più 3,41%, Madrid più 0,77%, Londra invariata. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,71%. E per quanto riguarda invece Wall Street affonda con la stretta a New York per il coronavirus, di cui parleremo collegandoci per l'appunto con New York. Il Dow Jones perde il 4,62%, il Nasdaq cede il 3,79%, mentre lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno il 4,40%. E arriva l'allarme dell'Associazione Costruttori Europei. L'industria automobilistica sta attraversando la sua crisi peggiore. Con l'arresto di tutta la produzione e la chiusura della rete di vendita sono in gioco 14 milioni di posti di lavoro in Europa. Tornando sulla questione dell'attesa stretta, in realtà c'è stato un chiarimento, in Italia naturalmente, per quanto riguarda i negozi di alimentari e supermercati, che rimarranno aperti nel fine settimana. Così ha chiarito il governo, anche se le regioni si dividono. Supermercati, ipermercati e negozi di genere alimentari resteranno aperti nel fine settimana. La precisazione arriva da Palazzo Chigi, ma le regioni si dividono. Il Veneto, come già il Friuli Venezia Giulia, ha disposto la chiusura domenica prossima. Il Lazio ha deciso una riduzione degli orari fino alle 15, la domenica fino alle 19, dal lunedì al sabato. Nessuna limitazione invece in Lombardia e nelle altre regioni. Ridurre gli orari crea solo più calca, code e contagi, sottolinea Matteo Renzi. Sulla stessa linea anche l'assessore al welfare della Lombardia Gallera e il sindaco di Milano Sala, secondo cui la stretta diffonderebbe il panico, come testimoniano le lunghe code delle ultime ore. Al di là delle ordinanze regionali, molte insegne hanno deciso una rimodulazione degli orari, chiusure per le prossime due domeniche per COP, per Esselunga chiusura anticipata alle 20 nei giorni feriali fino al 3 aprile e alle 15 domenica prossima. Niente allarmismi, solo chiusure eccezionali per far riposare il personale, sottolinea l'Associazione Distribuzione Moderna, che ribadisce le regole per la spesa. Una sola persona per nucleo familiare una volta alla settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fin qui soprattutto abbiamo parlato d'Italia, sentiamo che cosa è relativo invece, a proposito di contenimento e di misure per il coronavirus, negli altri paesi europei. Supera le 10.000 vittime il bilancio del Covid-19 nel mondo, con circa la metà dei decessi concentrati in Europa e il continente nell'occhio del ciclone. La Spagna resta il focolaio più grave dopo l'Italia, con oltre 1.000 vittime e 20.000 contagiati. A Madrid i medici delle unità intensive si preparano a scegliere chi salvare e chi far morire qualora la capacità di accoglienza degli ospedali dovesse andare al collasso. In Francia il ministro dell'interno Castaner ha strigliato la popolazione: non provate nel weekend ad aggirare il confinamento a casa o sarete sanzionati. Questo mentre un'assemblea nazionale in formato ridotto esaminava il testo di legge sullo stato d'urgenza. La Gran Bretagna ha visto l'incremento più forte di vittime in un giorno, il totale supera le 180 e nei sobborghi di Londra c'è un ospedale in piena crisi per numero di malati in terapia intensiva. We are collectively telling cafes, pubs, bars and restaurants. Il Premier Johnson ha ordinato a bar, pub e ristoranti in tutto il paese di chiudere con effetto quasi immediato in un giro di vite drammatico, varato un piano di assistenza finanziaria per gli stipendi. In quarantena è finita intanto la Baviera, che con altri 4 Länder tedeschi ha nei fatti vietato il movimento non necessario dei suoi cittadini. Domenica Frau Merkel potrebbe estendere la misura a livello federale. In Germania oltre 18.000 casi, ma solo una cinquantina di vittime. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso l'anticipo di Reportage. Medici, infermieri, operatori sanitari, tutti sono, come stiamo raccontando da settimane ormai, in lotta in prima linea contro il coronavirus. Molti di loro si sono ammalati, ci sono state purtroppo anche delle vittime, si reclutano ora anche neolaureati che abbiano fatto il tirocinio. A loro è dedicato il reportage di domani mattina, dopo il GR delle 8, nelle trincee degli ospedali in guerra contro virus e solitudine. Il reportage di Raffaella Calandra, e questa è una breve anticipazione. È soprattutto a sera che tutto diventa più difficile. Quando fuori le sirene si susseguono, dentro gli allarmi si rincorrono e chi resta in corsia lotta per dare medicine, ma anche conforto. Facciamo dei grandi, grandi piatti. Cioè io quando ho raccontato di quel signore di 42 anni che mi ha stretto la mano, ma che giura di che mi sveglio. Gli ho fatto una promessa che non lo so se se la potrò mantenere. La chiama trincea Maria Cristina Settembrese, infermiera del San Paolo di Milano, questo ospedale dove ogni giorno combatte contro il virus, ma anche contro la solitudine dei pazienti. Divenuta il nostro ultimo nemico, sussurra Paola Nicolini, medico di Bergamo, qua dove sono tantissimi i camici bianchi contagiati e i necrologi raccontano la Spur River della città. Il coronavirus è arrivato come un'ondata, imprevista, sconosciuta, che ci ha travolto tutti. Come in ogni guerra, arriva il momento in cui si arruolano anche i più giovani, medici abilitati d'ufficio, come è stato per Davide Restelli. Le parole chiave in questo momento devono essere due: prudenza e umiltà. Noi siamo neolaureati, quello che secondo me noi potremmo fare è un supporto. Sempre più giovani, anche i dottori delle strutture per anziani, chiusi e all'esterno, al cui interno a volte si consuma una strage silenziosa. Praticamente da un mese i nostri pazienti non possono più vedere i parenti. Interrotte tutte le attività degli educatori e degli psicologi, quelli lucidi si angosciano e i pazienti dementi non sono più per niente stimolati. Chiedono una mano a tutti noi, medici ed infermieri, con i loro volti rigati da mascherine indossate troppo a lungo. E se loro lottano, noi dobbiamo aiutarli restando in casa. All'estero adesso sono stati impiccati in India gli stupratori del bus di Delhi, li hanno impiccati all'alba, sono i primi indiani condannati a morte per il reato di stupro per avere violentato e torturato a morte su un bus, ricordate in una sera che l'India non dimenticherà, il 16 dicembre del 2012 Nirbhaya, una studentessa di 23 anni, quattro assieme ad altri due complici erano stati condannati in tempi strettissimi con una sentenza emessa nel febbraio del 2013, ma si sono voluti 7 anni perché la sentenza venisse eseguita. Nel frattempo uno degli altri due complici, l'autista dell'autobus, è morto in carcere suicida, mentre il sesto, allora minorenne, è tornato in libertà dopo aver scontato 3 anni in un riformatorio giovanile. Abbiamo dovuto attendere, ma non abbiamo mai perso la speranza, ha dichiarato ai media la madre della ragazza. Nessuno ci restituirà nostra figlia, ma almeno da oggi le indiane possono sperare che i colpevoli di delitti così atroci vengano puniti come meritano. Nirbhaya, ovvero senza paura, come la ribattezzarono i media durante l'inchiesta del processo, questo non era il vero nome della vittima, non poteva essere rivelato, fu stuprata e gettata dalla gang lungo una strada periferica dopo alcune ore di atroci torture. Lo sport, la torcia olimpica è arrivata in Giappone, ma il messaggio che porta con sé a 121 giorni dalla cerimonia di apertura dei giochi di Tokyo è tutt'altro che gioioso e rassicurante, perché ancora non si sa quale sarà il destino delle Olimpiadi del 2020, ma per il momento il Comitato Internazionale Olimpico tiene la barra dritta, dice ora sarebbe non responsabile e prematuro decidere per un rinvio, ha dichiarato il numero uno del Comitato Olimpico Thomas Bach. E ora musica. Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Gali con DNA si riprende la vetta della classifica degli album più venduti della settimana. Secondo le rivelazioni FIMI GFK, nei giorni in cui l'emergenza sanitaria per coronavirus tiene ancora giù saracinesche e la gente chiusa in casa. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. E godiamoci almeno atmosfera un po' allegra, diciamo, rispetto a quelle che sono le notizie. Ci lasciamo brevemente, ma torno ratta come la folgore. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi ricchi di notizie, di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata, di approfondimenti tra poco con gli ospiti e poi anche dei vostri messaggi. Vi ho chiesto poco fa se avevate voglia di dire che cosa fate mentre ascoltate Effetto Note. Ovviamente dovreste essere o a casa o al massimo al lavoro se avete dei turni particolari. Qualcuno già sta scrivendo, dice per esempio questo ascoltatore, grazie per esserci, ho interrotto una videochiamata con mamma e fratello perché c'è Effetto Note. Note, bacio Davide da Parma. Davide, mando un abbraccio immenso, non c'è bisogno però di interrompere le videochiamate, soprattutto quando si tratta di mamma. E poi Vincenzo dice: ciao Roby, io sto solo a casa, lontano dalla mia famiglia, è il mio compleanno e cucino. Allora ti festeggi da solo, Vincenzo, buon compleanno a te. Mentre Anna da Udine dice che cerca di superare mentre ascolta un livello di un videogioco e mio marito serenamente guarda la TV, ciò che gli aggrada. Un abbraccio. Mentre poi ci sono anche ascoltatori tra l'altro dall'estero, ci sono dei messaggi bellissimi, mentre per esempio questa ascoltatrice dice: ciao, di solito ascolto in salone sdraiata sul divano, oggi sono già a letto, sono stanchissima, silenzio totale, cuffie con Effetto Note. Magnifico, cosa posso chiedere di più a voi? Voi invece chiedetemi giustamente di informarvi su tutto quello che succede di più importante all'Italia e all'estero tutti i giorni, dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, finché si può naturalmente, sono sempre con voi. E adesso partiamo subito dall'ordinanza, la nuova ordinanza del governo. Allora, sapete che abbiamo parlato ancora dell'epidemia, insomma, dei contagi, dei numeri comunque altissimi. E quindi da più parti si è chiesto presidenti di regione, in particolare del nord, ma anche amministratori, l'opposizione e anche alcuni amministratori del centrosinistra, di varare delle misure ancora più stringenti per contenere il coronavirus in Italia. È arrivato un provvedimento che integra e in parte inasprisce queste misure del decreto del Presidente del Consiglio dello scorso 11 marzo, con tutte le regole che più volte abbiamo ripetuto qui Effetto Note, anche potete ritrovare sulla pagina Facebook di Effetto Note. Saluto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, eccoci. Allora, sono state varate delle ulteriori misure, forse si temeva qualcosa di ancora più drastico, però diciamo tra le cose principali, poi tu scenderai e ci aiuterai a andare più nel dettaglio, saranno chiusi gli esercizi alimentari nelle stazioni ferroviarie, stop a spostamenti verso seconde case nei festivi e prefestivi, anche se io pensavo che già facesse parte dell'ordinanza precedente, perché quando si diceva che tanti si spostavano verso il mare o la montagna o verso la Toscana, non si riteneva una cosa corretta. Poi non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, mentre resta consentito, questo mi fa molto piacere sinceramente essendo una runner da tanti tanti anni, svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Raffaella, quindi queste le misure, tra l'altro, sì, prego. Prego. Queste misure che praticamente hai elencato tu sono un po' la sintesi, il compromesso tra le richieste di alcune regioni con il Veneto, la Lombardia, ma anche il Piemonte e l'Emilia in testa per avere nuove strette e diciamo il tentativo di non introdurre troppi divieti nuovi, ma comunque di far conto anche su un senso di responsabilità degli italiani. Così ad esempio quello che era uno dei punti più attesi e anche un po' dibattuti, quello dello sport che ricordavi, non è stato introdotto il divieto allo sport, ma si è stabilito che dovrà essere tassativamente fatto, praticato da soli, ma soltanto nei dintorni di casa, non senza spostarsi. Ad esempio il Veneto è andato ancora oltre e ha stabilito anche una distanza di 200 metri anche per le passeggiate serali con il cane. Mentre poi, mi pare, Raffaella, che per esempio il Friuli Venezia Giulia già ieri abbia invece emesso un'ordinanza molto più restrittiva, no? Anche per quanto riguarda lo sport all'aperto. Infatti, come anche in Emilia Romagna già da qualche giorno, cioè le regioni sono andate un po' in avanti rispetto a queste restrizioni e sono state le stesse regioni appunto a fare pressioni sul governo fino ad arrivare appunto all'ordinanza di oggi. Tant'è vero che anche sulla discussione sull'apertura o meno dei supermercati si va un po' in ordine sparso. Scusami Raffaella, andiamo tra pochissimo. Ricordo solo, a proposito appunto di quello che dicevi, che le regioni sono andate un po' in ordine sparso con le ordinanze, il ministro per gli affari regionali Boccia in serata ha detto che qui ci vuole assolutamente, ha detto, un coordinamento delle regioni, ha chiesto oggi, secondo quanto si apprende, di non fare ordinanze singole perché non incidono se non sono omogenizzate con le indicazioni dello Stato, e dice di aspettare il governo, bisogna aspettare il governo che dal primo momento sta lavorando per omogenizzare sempre più le misure. Questo è vero, però è anche vero che le situazioni nelle varie regioni italiane non sono le stesse, e quindi come non comprendere la richiesta degli amministratori della Lombardia perché ci siano ulteriori strette. Infatti anche il governatore Fontana o il sindaco di Milano Sala hanno anticipato che si valuteranno anche la chiusura di tabaccai, dei cantieri non necessari e anche degli uffici pubblici, così come dall'altra parte c'è stata la richiesta del sindaco di Bergamo Gori perché venga creata un'ulteriore zona rossa nelle aree che sono queste a più alto contagio. Quindi si comprende la necessità di una omogeneità in tutto il paese, come ad esempio è stata appena introdotta con la chiusura di tutti i giardini pubblici, che era stata già fatta in molte città italiane ma non esisteva in tutto il paese. Quando però in questi giorni ancora sono stati multati dei ragazzi che nel napoletano organizzavano il picnic perché avevano bisogno, hanno detto, di uscire, oppure sono state trovate persone che ancora anche nei giardinetti pubblici delle città portavano i bambini in quelli che non erano stati recintati, ecco che se la responsabilità non è arrivata fin lì, ora è arrivata una nuova ordinanza del Ministero a stabilire un divieto con tutto quello che ne comporta, perché anche l'indicazione sui controlli ora cambia. Se all'inizio ci sono state indicazioni di essere quantomeno comprensivi nei confronti degli italiani, ora anche con la presenza dell'esercito, soprattutto in Lombardia ma anche in Campania, l'indicazione è quella di controlli serrati e di denunce nei confronti di chi violasse appunto questi divieti. Perché, Roberta, ricordiamolo e ripetiamolo sempre, perché ci sono anche tanti si chiedono e anche che protestano davanti a questi divieti che limitano tutti noi, che sono dettati dalla necessità di tutelare la salute collettiva di tutti, perché siamo, lo dico sempre, come tessere di un domino, da ognuno dipende l'altro. Raffaella, ricordavi appunto l'impiego dell'esercito che era stato chiesto più volte nei giorni scorsi da parte di alcune regioni al governo. Oggi sono arrivati per esempio a Milano 114 soldati e poi anche in altre parti d'Italia, anche se Fontana, presidente della regione Lombardia, ha detto sì, siamo contenti che abbiano accolto questa nostra richiesta, ma ci vorrebbe da aggiungere almeno uno zero per quanto riguarda la Lombardia. Insomma, vedremo nei prossimi giorni. Mentre vedevo poco fa una dichiarazione di Cirio, presidente della regione Piemonte, che ha detto bene che il governo abbia compreso la necessità di varare delle misure unificate per tutto il territorio nazionale, dice però il provvedimento recepisce una parte delle nostre istanze, anche se per l'attività motoria avremmo voluto fosse limitata a ragioni di salute. Aggiunge Cirio, non si fa cenno inoltre agli assembramenti davanti ai distributori automatici di cibi e bevande, né si parla purtroppo dei mercati e delle modalità per evitare l'assembramento negli esercizi commerciali, in special modo la domenica. A questo proposito, Raffaella, ricordavi che il governo oggi ha chiarito che supermercati e negozi alimentari resteranno aperti, non ci saranno restrizioni di orari, anche perché c'era stata, dicevi appunto all'inizio, accennavi alla polemica per cui molti hanno detto, insomma, se si riducono ulteriormente gli orari dei negozi alimentari o dei supermercati si rischia una maggiore concentrazione in orari più ristretti, Raffaele, sì, quindi certo, un aumento di persone. Non è semplice trovare una indicazione unica, ecco, senza alcun dubbio tutti sono mossi dallo stesso intento di evitare il contagio. C'è chi, come in Veneto o anche in Sicilia, ma anche appunto in Piemonte, ha optato per una conferma della chiusura dei centri commerciali e dei supermercati nel fine settimana o per restrizioni di orari, e ci sono altre regioni regioni come la Lombardia che invece appunto ritengono che questa chiusura creerebbe soltanto un ulteriore affollamento nei supermercati negli altri orari, per cui all'interno dell'ordinanza del Ministero della Salute di questa sera, per quanto riguarda i supermercati si introduce soltanto una minima limitazione che riguarda soltanto gli alimentari delle stazioni dei distributori di benzina, ma non in quelli autostradali, mentre appunto per i negozi, i supermercati cittadini, Palazzo Chigi aveva già chiarito che resteranno aperti anche nel fine settimana, anche se però c'è da dire, come ricordavamo prima anche nel servizio di Maria Elisa Pezzali, che ci sono state anche diverse catene di supermercati che hanno deciso di rimodulare un po' anche i loro orari, anche proprio per dare un po' di tregua anche ai loro dipendenti. Esatto. Grazie Raffaella Calandra. Ciao cara Raffaella. Grazie a te, ciao. Ciao Raffaella. Intanto poi continuano i vostri messaggi di chi dice ti ascolto dal lavoro con le il simbolo delle cuffie, mi fa piacere, quindi c'è naturalmente anche chi lavora in certi orari, mentre un altro ascoltatore dice che un ascoltatore di prima, anch'io sto ai fornelli mentre ti ascolto, insomma è bello sapere visualizzarvi, insomma dove siete, che cosa fate mentre ascoltate Effetto Notte, a parte chi raramente può essere a lavoro a quest'ora, viste le misure molto restrittive, mi fa piacere sapere che siete a casa rilassati e ascoltate Effetto Notte, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante. E infatti non possiamo non sapere con il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Ciao Alberto, sei a casa, è vero? Sì. Che ascolti Effetto Notte, vero? Esattamente. Chiaramente, non poteva rispondere diversamente. Allora Alberto, a te chiedo di illustrarci, di spiegarci con la tua capacità divulgativa questa decisione che pare unica per il momento nella sua storia da parte dell'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Spiega molto così semplicemente cos'è il patto di stabilità e che cosa significa quindi poterlo sospendere in questo momento. Beh, nel patto di stabilità c'era una cosiddetta escape clause, cioè la clausola di fuga, per così dire. Era già prevista in caso appunto di calamità, di eventi assolutamente imponderabili e devastanti, come appunto l'impatto che il coronavirus sta avendo sull'economia di tutto il mondo e a maggior ragione su quella dell'Eurozona. Ursula von der Leyen oggi ha detto chiaramente che viene applicata quella clausola e quindi per i governi non c'è più l'ossessione del mitico 3% che tanto ci ha creato polemiche, che tanto ha creato piani di austerità negli anni scorsi, perché oramai il contesto complessivo che fa da cornice alle azioni che devono mettere in campo i governi è completamente rivoluzionato. Ebbene, quindi d'ora in poi anche l'Italia potrà sforare il deficit, tanto è vero che le misure che sono state intraprese e annunciate dal governo in questa settimana hanno già cifrato il deficit intorno al 3%, grosso modo, quindi siamo già usciti dal famoso limite e oggi abbiamo avuto l'ufficializzazione, l'autorizzazione formale a farlo. È un gesto importante perché è anche la cosa che chiedevano di fatto i mercati, in preda alla speculazione, alla spinta che dai mercati è arrivata perché ci fosse un'azione coordinata e condivisa tra la Banca Centrale Europea e l'autorità dell'Unione Europea, e affinché andassero in modo concertato verso un unico obiettivo, che è quello di dare il denaro che serve in questo momento a tamponare questa grandiosa emorragia dell'economia, questa glaciazione che c'è su tutta la situazione economica del nostro paese, ma non solo, perché poi c'è una specie di glaciazione che riguarda di fatto tutta l'economia del mondo. Quindi è evidente che per sopperire a questo danno enorme c'è bisogno di una quantità ingentissima di risorse per mantenere da una parte la possibilità alle imprese di ripartire al meglio quando tutto questo sarà passato e dall'altra per tutelare il lavoro che altrimenti subirebbe una vera e propria strage. Quindi per far fronte a queste necessità è evidente che gli stati hanno bisogno di molta cassa. Avere molta cassa vuol dire andare in deficit e mettere nuovi titoli di Stato e porli sul mercato. A questo proposito è fondamentale anche l'altra parte di misure straordinarie che ha messo in campo la BCE, che per l'appunto ha annunciato acquisti per 750 miliardi che si sommano agli altri già in programma e quindi che portano il bazooka della Lagarde intorno ai 1.100 miliardi, ma con la clausola che è solamente una cifra iniziale, perché di fatto la BCE ha annunciato interventi illimitati qualora dovessero risultare non sufficienti quelli messi in campo finora. È chiaro che quindi da una parte abbiamo detto gli stati si devono indebitare, devono emettere nuovi titoli che qualcuno deve comprare senza far impazzire i rendimenti, perché altrimenti si creerebbe di nuovo quella spirale per cui lo Stato deve remunerare rendimenti molto alti e quindi a maggior ragione ha ulteriori spese. Ebbene, una grande parte delle prossime emissioni che sono prevedibili verranno comprati dalla BCE, che consentirà di calmierare appunto il tasso di interesse applicato a quei bond che verranno emessi e di calmierare il famoso spread che è la nostra vera e unica ossessione. Di differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi. Conte poco fa ha espresso soddisfazione per questa decisione riguardante appunto la sospensione del patto di stabilità. Leggo: si tratta di un ulteriore importante strumento che tornerà utile a integrare la strategia di risposta europea alle gravi conseguenze sociali ed economiche dell'emergenza sanitaria da coronavirus, praticamente quello che hai detto tu, Alberto Rioli. Bene, direi che con questo ci possiamo lasciare. Ti ringrazio. Grazie per la tua spiegazione, grazie Alberto Rioli, un abbraccio e buon proseguimento. Grazie. Ciao Alberto. Ancora un ascoltatore tra i tanti che dice: cosa faccio mentre ascolto Effetto Notte? Sono un fabbro coltellinaio, un ascoltatore fisso. Molto bene, quindi benissimo, anche questo ascoltatore fa esattamente quello che è giusto fare a quest'ora. E poi, mentre Lidia dice: lavo i piatti e riordino la cucina. Un abbraccio, ognuno naturalmente preso dalle sue attività. La radio, lo sapete, si può ascoltare anche facendo mille altre cose. Mentre Sandro scrive: io all'ingrasso davanti ai fornelli, chiuso in casa, non rinuncio mai a Effetto Notte, perché mai bisognerebbe rinunciare. Grazie caro Sandro, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, qualsiasi cosa stiate facendo a casa oppure al lavoro, siete al posto giusto, nel momento giusto. Roberta Giordano sempre con voi. Voi che continuate a scrivere anche i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. E continuate a scrivere anche cosa fate mentre ascoltate Effetto Notte in questi frangenti così eccezionali, insomma, da un punto di vista negativo. Dice, per esempio, ecco, questa ascoltatrice dice: Roberta, posso finalmente scriverti dopo aver liberato le mani dall'impasto domani focaccia. Ecco, se tu mi invitassi, ma non posso venire con quello. Abbiamo detto, ognuno deve stare a casa sua, per carità. Mentre un Paolo dice: io interrompo di scrivere, io al lavoro, dice un altro ascoltatore, impiegato al volante, autista di linea, rifornimenti, piattaforme eccetera eccetera, fresco congelato. Roberto da Modena, quante cose diverse state facendo. Mentre Francesco stava ascoltando Lucia San Siro, ma ora chiaramente ascolta Effetto Notte. E poi invece un altro ascoltatore, Stefano da Torino: vi ascolto dal lavoro in un gruppo di appartamento con 5 ragazzi con disabilità mentale. In genere a quest'ora si giocava a giochi di società, carte, freccette, ma in questo periodo sono ognuno nella propria camera e a quest'ora dormono già. Buon lavoro anche a voi, buon lavoro anche a te caro Stefano. Bene, questo fa decisamente da calore in questo momento in cui c'è appunto questa clausura forzata, solitudine, distanziamento sociale. Allora, ci fiondiamo però a questo punto, rispondo a Gianni che mi dice che avevo prima letto un titolo importante e poi non ho dato la notizia perché avevo visto il titolo così con la coda dell'occhio, adesso ho ritrovato la notizia. È stata trovata un'arma capace di bloccare il motore del virus SARS-CoV-2, che sarebbe il Covid-19, si chiama 13B, è una molecola che lega e inibisce l'enzima proteasi usato dal virus per replicarsi nelle cellule infettate. Questo è considerato il bersaglio principale per colpire il virus e la sua struttura 3D, finalmente svelata grazie a raggi X del sincrotone Bessi di Berlino, e aiuterà a sviluppare nuovi farmaci, come indica lo studio pubblicato su Science da un gruppo internazionale guidato dall'Università di Lubecca in Germania. Speriamo, sono tanti piccoli passi, vedremo un po' se procedono abbastanza velocemente. Dicevo, ci colleghiamo con Stati Uniti dove c'è il nostro Riccardo Barla, ma caro Riccardo. Ciao Riccardo, direttamente a New York. Parlavamo prima delle ulteriori misure restrittive varate dal governo questa sera, governo italiano. Lì è notizia di oggi che a New York da domani a casa il 100% dei lavoratori, no? Così ha deciso il governatore di New York, Riccardo. Sì, lui ha detto che ovviamente ha ricordato che gli americani difendono la libertà e lui anche difende la libertà individuale, ma in questo momento ha usato proprio queste frasi: è un momento in cui la responsabilità di ognuno è quella di fare attenzione a se stessi e agli altri, quindi da lunedì a New York in realtà c'è questo lockdown totale, lui ha detto che durerà dei mesi. La stessa cosa è successa, è partita la California, E in California è lo stato più popoloso e più ricco degli Stati Uniti, è la quinta potenza mondiale, se fosse una nazione a sé. E da ieri sera c'è questo lockdown e pensate che lì il governatore, che si chiama Newsom, ha scritto a Trump e ha detto: guarda che qui se non facciamo qualcosa nelle prossime 8 settimane più di metà della popolazione, quindi lui parlava di 25,5 milioni di abitanti, prenderanno questo coronavirus. Si sta praticamente svolgendo lo stesso film che drammaticamente state vivendo in Italia, e siamo diverse settimane indietro. Oggi in California c'erano scene, le avete viste sui canali web, di persone, centinaia di metri di file fuori dai supermercati. È esattamente la stessa cosa. A New York il sindaco è arrabbiatissimo, dice che ci vuole l'esercito e chiede appunto di avere questi aiuti, questi respiratori che non ci sono e le mascherine che anche qui non ci sono. Il governatore peraltro oggi Cuomo ha detto: i respiratori sono in questa guerra sono come i missili quando c'era la seconda guerra mondiale. Quindi l'altra notizia di oggi è che Ford, GM e Tesla, le aziende automobilistiche americane che hanno chiuso i battenti in questo momento, hanno deciso di mettersi a produrre respiratori. Vedo Riccardo che appunto non ci sono i respiratori in un paese come gli Stati Uniti, al di là che non ci sia il sistema sanitario nazionale che c'è in Italia, ma immaginavo almeno io che ci fossero le attrezzature, però vedo che gli Stati Uniti hanno testato con successo un missile ipersonico glider lanciato da base nel Pacifico in una rincorsa a Mosca e Pechino. Ecco, diciamo, questa è la notizia evidentemente. Questa decisione federale che va per i governatori e le città sono quelli che sono più in prima linea in questa cosa, e Trump, che fino ne abbiamo detto tante volte, fino a 3 giorni fa diceva che non c'era la crisi, che sarebbe passata. Anzi, una cosa interessante di oggi è che per esempio c'è questa specie di scandalo di senatori repubblicani, c'è il presidente della commissione parlamentare di intelligence che è uno dei sostenitori del fatto che l'America è pronta, l'America saremo a posto, ce la faremo, e si è scoperto dai tabulati della SEC, dell'Authority di borsa, che il mese scorso ha venduto i suoi titoli personali, quindi si parla di quasi 2 milioni di dollari di azioni di società che in questi giorni hanno perso tantissimo, con società appunto legate alle quindi compagnie. Quindi il suo ottimismo è di pura facciata, insomma, nel frattempo ha fatto i suoi affari. Bene, razzolava male. Chiaro. Grazie Riccardo Barlan da New York, mi raccomando, un abbraccio, stai attento. Ciao Riccardo. Poi sempre per sapere quello che fate, c'è un'altra ascoltatrice che dice: io dopo le preghiere corro per le scale per arrivare a prendere la codina delle notizie. No, mi raccomando, corri più veloce in modo da sentire tutte le notizie. Dice: sono una suora, quindi ci sono anche suore e preti e frati naturalmente all'ascolto. Tutti quanti, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E c'è un liutaio da Padova che saluta, che ascolta Effetto Notte. Sono liutaio, sto facendo una viola, dice che ho chiamato Covid-19. Sei sicuro che vuoi proprio chiamarla Covid-19? Vabbè, insomma, tutti i gusti sono gusti, vuoi ricordare questo momento così particolare. Adesso però parliamo di scuola, genitori e figli che naturalmente si sono trovati in una situazione particolare a loro volta, a parte la convivenza più ravvicinata del solito, però anche il fatto di dover capire come mandare avanti comunque la preparazione scolastica pur restando a casa. Lo sapete, si è parlato molto di didattica a distanza, siamo ormai alla terza settimana di sperimentazione. Allora voglio chiedere a Mario Rusconi, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sezione Lazio e preside del Liceo Newton di Roma, che voi conoscete benissimo. Professor Rusconi, buonasera. Preside Rusconi? Buonasera. Buonasera, ecco, non la sentivo. Facciamo quindi, è importante a questo punto, visto che anche la ministra Azzolina ha fatto capire ieri che insomma probabilmente le scuole ci sarà una proroga ulteriore della chiusura e potrebbe esserci il caso che addirittura si chiuda l'anno così, senza ritornare a scuola. Come sta andando? Facciamo in sintesi un bilancio di questa didattica a distanza? Ma guardi, in un primo momento ci siamo trovati naturalmente come tutti abbastanza spaesati, direi, i genitori, gli studenti, anche gli stessi insegnanti, però poi con molta, diciamo così, con molto attivismo, con molta buona volontà ci si sta attrezzando. Certo, ci sono molte difficoltà che derivano dalla mancanza spesso, soprattutto nelle scuole elementari e medie, di device, delle linee internet, eccetera, tra le famiglie. Spesso mancano anche appunto direttamente i computer e le scuole medie superiori sono molto più attrezzate, però abbiamo costituito una serie di scuole polo, diciamo, sul territorio, anche con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, che fanno un po' da consulenti in un momento in cui quello che deve prevalere proprio è la collaborazione professionale, perché siamo andati per la prima volta in un mare aperto e non sappiamo quando raggiungeremo l'America. Certo, senta, ma a proposito di strumentazione, di spazi, dotazioni tecnologiche, perché ovviamente non tutti a casa, no, le hanno, come da questo punto di vista come sta andando? Ma sta andando che, per esempio, stiamo facendo una richiesta adesso con il decreto legge, ci saranno molti fondi, speriamo che ci siano i decreti attuativi al più presto per poter comprare questi materiali e poterli distribuire alle famiglie che non li hanno. Però nello stesso tempo molte scuole si sono attivate, per esempio, con aziende e stanno recuperando, come dire, in maniera volontaristica sul mercato tutta una serie di prodotti che magari le aziende hanno dismesso e le stanno distribuendo. Clamoroso è il caso, mi permetto di sottolinearlo, di un istituto comprensivo del centro di Roma, Manin, che è quello più interetnico, ci sono 200 fra cinesi, Bangladesh, eccetera, che chiaramente quasi tutti non avevano nessun materiale. Beh, la preside, che è una persona molto attiva, si è data da fare, ha già recuperato una trentina di computer e li sta mandando direttamente alle case di queste persone. Bene. Cioè, probabilmente, diciamo, in questa situazione viene fuori un po' il meglio di noi italiani, mi permetto di dire, spero che così continui. Infatti, Rusconi, però a proposito del meglio di tantissimi, della gran parte degli italiani, è vero che qualche insegnante si rifiuta di fare la didattica a distanza perché dice un diverso modo di lavorare che non è stato contrattato, molto brevemente, così? Ma, guardi, la cosa non riguarda tanto gli insegnanti, sì, alcune rare aves ci saranno pure, ma non riguarda tanto gli insegnanti quanto i sindacati della scuola, che hanno fatto un comunicato che mi permetto di definire durissimo, in cui hanno detto che non poteva essere applicata una didattica a distanza se non fosse stata, diciamo, contrattata direttamente con loro, il che voleva dire con tempi veramente biblici. Come associazione prestiti noi abbiamo detto: beh, basta fare allora una consultazione col signor Virus e vediamo che cosa ci risponde. Chiaro, insomma, si sono consultati col signor Virus? No, evidentemente sa quello che dà fastidio, il fatto di essere scavalcati, ma adesso noi ci teniamo moltissimo come presidi alla democrazia, io penso lo stesso ministero e il governo. Certamente. Ma in momenti particolari bisogna ricorrere a sistemi, diciamo, più veloci, più sbrigativi, altrimenti veramente i nostri ragazzi hanno un danno gravissimo. Chiaramente. Grazie mille, preside Mario Rusconi. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti voi. Ora invece andiamo a Codogno, cittadina lombarda che, lo sapete, è balzata alle cronache suo malgrado dall'inizio dell'epidemia del coronavirus in Italia per essere stata il primo focolaio insieme a Voio Ganeo nel Veneto, invece Codogno nell'Odigiano, appunto per la presenza del virus. Arriva però una bella notizia: sono riusciti a Codogno a impiantare in pochissimo tempo un impianto per la produzione di liquido disinfettante che adesso viene distribuito gratuitamente a ospedali, comuni, case di cura di tutta la Lombardia. È vero, Maurizio Longini, che è referente per la produzione del disinfettante della protezione civile di Codogno. Buonasera Longini. Buonasera a voi. È così. Siamo stati abbastanza veloci. Diciamo che tutta questa cosa è cominciata da un contatto con Denora. Denora è una società di Milano famosa nel mondo delle applicazioni elettrochimiche, la quale ci ha fornito in comodato d'uso gratuito 4 macchine per produrre ipoclorito di sodio allo 0,6% di clorattivo, candeggina, parlo di povere, a concentrazione dello 0,6, quindi più bassa della candeggina che si usa commercialmente. Con queste 4 macchine siamo in grado di produrre, ogni macchina produce 100 litri di prodotto per ogni ciclo, quindi con 4 macchine riusciamo in 3 ore a produrre 400 litri. Caspita. Prodotto. Finora abbiamo prodotto quasi 8.500 litri e ne abbiamo già consegnati 7.500 al comune di Codogno, ai comuni viciniori, alle scuole, agli ospedali, anche a 2 province fuori dall'area lodigiana, quindi anche in provincia di Milano e in provincia di Brescia. La cosa interessante è che è un prodotto abbastanza facile da ottenere, semplice, perché ci vogliono 100 litri d'acqua e 2 kg di sale da cucina, cloruro di sodio. Attraverso un'elettrolisi la soluzione si trasforma in ipoclorito. Allo 0,6 va benissimo per disinfettare superfici, comunque pavimenti e cose di questo genere, le strade, quindi indubbiamente una soluzione molto molto come dire pratica. Noi abbiamo la forniamo in flaconi da 10 litri dotati della loro bella etichetta con le caratteristiche del prodotto e con le istruzioni per l'uso, e dobbiamo ringraziare tutti quelli che veramente in pochissimo tempo ci hanno consentito di mettere in piedi questa iniziativa. E sono tutti volontari, no, Longini, che fanno questo lavoro, giusto? Assolutamente sì, la protezione civile è fatta soltanto da noi, noi siamo volontari, le macchine ci sono state fornite in comodato d'uso da De Nora, il sale ci è stato regalato dalla elettrochimica Valle Staffora, ci hanno regalato 800 kg, quindi c'è da andare avanti un po'. Quindi tutti hanno messo un po' il loro contributo, e voi, Maurizio Longini, avete dimostrato, primo paese colpito in una situazione così difficile, di esservi rialzati. Speriamo che anche da voi i contagi continuino a rallentare sempre di più, e avete fatto questa cosa bellissima che è utile a tutti, in particolare in questo momento la Lombardia. Grazie Maurizio Longini, e ci saluti e ci abbracci tutti i suoi collaboratori. Grazie, grazie a voi di averla fatta. Buona giornata. Grazie. Oh, e adesso, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in questi frangenti impensabili sino a poco tempo fa, anche il meteo perde la trabisonda. In realtà siamo abbastanza abituati, no, a cambiamenti climatici. Però noi la natura diremmo fiorellini, foglie sugli alberi, uccellini, ma allora è arrivata la primavera. Invece no, errata corrige. Paolo Corazzoni di Trebi Meteo. Sì, buonasera, buonasera. Se ciao, qualcosa Paolo cambierà, anche più di qualcosa, in realtà il weekend parte con condizioni primaverili, domani è ancora giornata più che discreta, comunque ce la passiamo a casa, domani toccheremo anche 19-20 gradi. Invece da domenica arriva aria più fredda sull'Italia, già domenica al nord e sull'Adriatico primo calo delle temperature, e lunedì questa aria fredda raggiunge tutto il paese. Insomma, lunedì temperature massime sotto i 10 gradi praticamente da nord a sud, di notte probabilmente torneremo anche sotto zero al nord la settimana prossima. Torna anche la neve sull'Appennino, fino a giovedì condizioni invernali, però sai, in questo frangente almeno ci aiuta a stare a casa più volentieri, volendo ci sta anche, non so come dire. Va bene, il tuo bicchiere mezzo pieno, come al solito, mezzo pieno di neve e di gelo in questo momento. Da una parte sì, è vero, perché così si è meno tentati, però dall'altra anche questo su e giù continuo di temperature, ma ci farà bene, siamo già abbastanza stressati. Davvero dobbiamo stare attenti, perché nel momento in cui ci mettiamo anche del nostro, o meglio in cui il tempo ci mette del suo, potrebbe in qualche modo indebolire le nostre difese immunitarie. Quindi a maggior ragione siamo molto attenti e stiamocene a casa, davvero, è necessario. Grazie Paolo Corazzon da casa, naturalmente. Anche Paolo, buon tempo a te comunque sia. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao caro Paolo. Concetto, vinceremo, ci sentiamo alle 22.